Questa è la panoramica essenziale sullo Quattro Postes di Ávila. Scopriamo insieme i segreti di questo affascinante monumento spagnolo, sai, un luogo davvero pazzesco, dove storia, fede e leggende si incrociano per regalarci la vista in assoluto più spettacolare su un'antica città medievale. Allora, primo, cos'è esattamente? Beh, costruito nel 1566, questo monumento religioso, noto come Humilladero, vi accoglie con quattro maestose colonne doriche alte ben 5 metri, unite da architravi con lo stemma della città e una croce di granito proprio al centro. Nacque come luogo di sosta per i pellegrini, per celebrare, pensate un po', una lontana vittoria militare del 1157 e la fine di una devastante epidemia di peste. Secondo, vi immaginereste mai che questo posto è legato alla ribellione di una bambina? Parliamo dell'immortale figura mistica di Santa Teresa d'Ávila. La leggenda narra che, proprio in questo punto esatto, una giovanissima Teresa fu intercettata dallo zio. Stava letteralmente cercando di fuggire col fratello verso le terre musulmane per subire il martirio. Frustrata per essere stata fermata, si tolse i sandali e lanciò la sua iconica sfida: di Ávila nemmeno la polvere. E infine arriviamo al belvedere per eccellenza. Oggi lo Quattro Postes è il punto panoramico più celebre e fotografato in assoluto per ammirare l'imponente cinta muraria medievale di Ávila, la cattedrale e il fiume Adalia. Ti regala un'atmosfera davvero magica, specialmente quando la luce dorata del tramonto avvolge completamente le mura della città. Insomma, che si tratti di pura devozione o della ricerca dello scatto perfetto al tramonto, questi quattro pilastri di pietra racchiudono l'anima immortale di Ávila.